Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Fujiko. Oggi lunedì 20 ottobre 2014 riparte lo spazio nuovo, diciamo, ma anche antico di 451 intersezioni. Ricordiamo ancora, per gli ascoltatori che non conoscessero questo nuovo spazio radiofonico, in realtà è una continuazione, un progetto nuovo che unisce il vecchio programma Intersezioni di Pierantonio Pezzinga, purtroppo scomparso a marzo scorso, e noi di 451 abbiamo deciso appunto di continuare questo filo rosso di congiunzione che univa noi anche al Pierantonio come amici e compagni, e porteremo avanti questo nuovo spazio musicale sperimentale che ripercorrerà molte tracce, molti sentieri già percorsi da Pierantonio, ma anche nuovi sentieri e nuovi linguaggi che ovviamente cercheremo di declinare a nostro modo noi di 451 Frammenti Sonori. 451 dunque intersezioni, spazio che vede stasera la terza puntata, in realtà la puntata 2, perché la prima puntata è stata la puntata 0 di 2 settimane fa, condotta insieme da il sottoscritto, cioè Eliseo Scarpa e Max Macchia, che saluto chiaramente caldamente dai microfoni di Radio Fujiko. E stasera la seconda puntata si incentrerà su una sorta di mia licenza poetica, una sorta di mia allucinazione sonora. Il tema di stasera è delineato come sogni sonori, dunque dimensioni oniriche, sogni legati alla dimensione del suono, ma anche suoni che possono rimandare o suggestionare dimensioni oniriche sognanti. Dunque un gioco che intreccerà vari progetti, varie musiche e vari linguaggi questa sera, e partiremo subito con un artista molto amato da noi di 451, ma anche molto amato, era molto amato anche da Pierantonio Pezzinga, un personaggio che ha sicuramente delineato le sperimentazioni e le avanguardie degli anni 60 e 70, soprattutto nell'ambito del jazz più aperto e più eclettico. Si tratta di Sun Ra, insomma un nome importantissimo della scena del Novecento, ancora seminato per gli anni zero. Molti musicisti e molti jazzisti, soprattutto quelli più aperti a contaminazione elettronica, dimensioni anche di suoni appunto spaziali, lui poteva essere definito uno degli alfieri di quello che è stato etichettato Space Jazz. E Sun Ra stasera lo andiamo a scovare da un album non particolarmente diciamo conosciuto, pubblicizzato, un disco del 1978, Lanquidity, dove Sun Ra attraversa le sue dimensioni assurdiste e in alcuni casi molto free, ma in alcuni momenti, come nel brano che abbiamo selezionato, attraversa proprio un viaggio onirico con una dolcezza incredibile, una dimensione sognante che richiama perfettamente l'idea di stasera di sogni sonori. Dunque partiamo subito con questo splendido brano musicale, questo capolavoro di questo genio del Novecento, Sun Ra, dunque da Lanquidity 1978. Oh, splendido veramente questo lavoro, questa composizione di Sarra, insomma un nome che non ha bisogno particolarmente di presentazione, ma è giusto sempre dare qualche notizia, anche perché non dobbiamo dare mai per scontato che non ci siano dei neofiti o qualcuno che casualmente si è sintonizzato sulle frequenze di Radio Fujiko e state ascoltando 451 intersezioni, l'album di Sarra da cui abbiamo tratto il brano di apertura di questo splendido lavoro, è Lanquidity 1978, insomma sogni percorsi onirici, viaggi mentali o forse indormiveglia, e dal jazz cosmico, spaziale, onirico di Sarra ci spostiamo completamente, entriamo in un'altra dimensione, una dimensione sempre chiaramente onirica ma musicalmente sicuramente differente. Ricordiamo anche, prima di presentare meglio il prossimo autore, anzi i prossimi due autori, il prossimo album, che se volete, se siete interessati a riascoltare la trasmissione, o soprattutto se volete avere maggiori indicazioni sugli album che abbiamo inserito nelle trasmissioni, i brani, qualche notizia in più, e chi più ne ha più ne metta, potete collegarvi ovviamente via internet sul sito 451frammentisonori.noblogs.org, dove potrete trovare anche le scalette, le varie puntate, anche scaricabili o ascoltabili in podcast, appunto sul sito di 451 Frammenti Sonori ci sarà lo spazio ovviamente dedicato a 451 intersezioni, sono state già messe online le prime due puntate e la prossima sarà circa tra 5-6 giorni, sarà inserita all'interno del blog, ovviamente a scanso di problemi, speriamo che non ci siano problematiche, comunque su 451.noblogs.org potete trovare ulteriori informazioni sulla trasmissione. A questo punto andiamo subito a presentare i prossimi due autori molto interessanti, sicuramente tra i più produttivi e più sperimentali della scena americana, newyorkese in questo caso, sull'universo, dentro l'universo delle musiche elettroniche ambientali, ma non solo. Si tratta di Taylor Dupree e Christopher Willits, dall'album Listening Garden, uscito nel 2007 per la Line, un splendido lavoro dove l'aspetto ambientale, ma anche diciamo le microfonazioni che vengono utilizzate da questi autori, questi musicisti che sono anche del sound designer, sound art, lavorano su diciamo territori anche molto differenti e che si intersecano ovviamente sul piano dell'aspetto musicale, due musicisti appunto che si sono ritrovati in questo disco. Taylor Dupree è un po' più famoso di Christopher Willits, anche perché ha lavorato con autori molto importanti, soprattutto Ryuichi Sakamoto, con cui ha costruito un paio di album, un artista che si è anche mosso molto verso il jazz e verso dimensioni sonore differenti rispetto al suo inizio alla fine degli anni 90, dove si muoveva molto dentro la minimal, seppur sperimentale, e dentro l'elettronica un po' più convenzionale dentro gli anni 90. Poi nel corso degli anni si è molto spostato e si è interessato anche a altre sonorità, appunto a altri percorsi sonori. Christopher Willits invece è stato un po' meno produttivo in questi anni zero, all'inizio della decade degli anni 10, ma rimane sempre dentro questo contesto ambientale e spesso nei suoi lavori costruisce dimensioni che ricordano molto appunto territori onirici, dimensioni sognanti. In questo disco, che vi consiglio vivamente perché è un lavoro estremamente interessante, uscito, ricordo ancora e mi ripeto, nel 2007, Listening Garden, andiamo a estrapolare la traccia numero 4, che dà proprio l'idea perfettamente del viaggio onirico. Si sentono a un certo punto dei suoni, dei riverberi, degli echi ambientali, quasi da una stazione dove la voce diciamo dell'autoparlante riecheggia da lontano, si sentono passi e questi suoni ambientali che emergono in questo caotico suono riverberato. È proprio una dimensione che può dare l'idea appunto del sogno, del viaggio onirico. Andiamocelo a sentire, basta ciance a questo punto, Taylor Dupree e Christopher Willits. Taylor Dupree e Christopher Willits da Listening Garden 2007, un disco assolutamente splendido. Avete ascoltato questa traccia finale che chiude l'album e diciamo dà la coloritura assolutamente perfetta del viaggio onirico di tutto questo lavoro costruito da questi due musicisti newyorkesi. E ora ci spostiamo in un territorio onirico sicuramente un po' oscuro, quasi vicino all'incubo, ma in realtà il brano che abbiamo selezionato rientra di più in una dimensione sognante, dunque dolce, positiva, assolutamente appunto da allontanamento in senso buono da tutto, ma la formazione sicuramente è una formazione che è caratterizzata anche da elementi fortemente dark, con dimensioni estremamente inquietanti, anche molto collegate a una matrice industriale a cui loro comunque affondano. Si tratta di un duo fondato nel 2009 a Manchester, in Inghilterra, costituito da Mike Sweetaker e Pendle Coven. Si tratta dei Dem Dyke Star, formazione sicuramente molto conosciuta nel territorio elettronico, formazione che si è mossa diciamo su universi sonori molto molto differenziati, dal techno appunto al dark, all'ambient, a dimensioni industrial e anche a coloriture dubstep e dub, che hanno sicuramente evidenziato la loro grande duttilità, la loro versatilità e la loro sperimentazione a tutto tondo. L'album che abbiamo diciamo carpito dall'universo sonoro piuttosto anche produttivo dal 2009 ad oggi è Elemental, il disco diciamo l'LP alla vecchia maniera, ultimo che è uscito come Dem Dyke Star, è uscito nel 2012. Un brano appunto che rientra perfettamente nel nostro viaggio onirico, anche se appunto le dimensioni scure e inquietanti sono abbastanza caratterizzanti di questa formazione musicale. Forse si addicono un po' anche al clima scuro e piuttosto plumbeo che attraversa anche questa simpatica città bolognese, soprattutto dopo i fatti abbastanza gravi, dopo la manifestazione antifascista contro il governatore della Banca d'Italia Visco, che è avvenuta sabato scorso con scontri e tafferugli in città. La cosa molto grave appunto è l'arresto di un compagno a cui noi di 451 ovviamente diamo massima solidarietà, e soprattutto anche le decisioni piuttosto gravi, quasi di ritorsione, da parte del Consiglio Comunale, quasi unito in maniera abbastanza completa, tranne pochissime eccezioni, contro appunto i manifestanti, i soliti facinorosi. Ecco, noi chiaramente non stiamo dalla loro parte, lo diciamo, e diamo solidarietà ovviamente al compagno arrestato. E a questo punto, con questa bella enunciazione all'interno del nostro viaggio onirico, andiamo a presentare e andiamo a ascoltare i Dem Dyke Star da questo splendido lavoro Elemental del 2012. E siamo ritornati in diretta ancora con 451 intersezioni. Abbiamo ascoltato questo frammento di questo splendido lavoro Elemental di The Dykstar, uscito nel 2012. Il brano in questione era Grace, è assolutamente da acquistare o da trovare in qualche altra maniera. Non suggeriamo altro, chiaramente, perché noi siamo comunque contro il copyright, dunque avrete già capito come ci muoveremo. Intanto nel sottofondo c'è la voce delirante, lirica, che emerge appunto dal sogno o dall'incubo, non lo so, dipende da come la volete vedere voi, e in sottofondo, diciamo, può annunciare, anzi, se vogliamo essere più corretti, il prossimo progetto. E qui rientriamo per certi versi dentro la materia jazzistica, ritorniamo dunque dentro l'universo jazz, anche se la dimensione della definizione anche jazzistica un po' limitativa rispetto a questo progetto australiano, che si è fondato nel 2008, è praticamente durato un anno da parte di questi tre musicisti australiani, Abel Cross, Adrian Clumps e Finn Ryan, che hanno appunto costituito questa formazione Three of Millions, splendido progetto che però è durato solo un anno. I musicisti poi hanno continuato in maniera solistica in altri progetti a portare avanti la loro sperimentazione, il loro lavoro musicale, hanno fatto uscire in questo anno praticamente di vita due album, e adesso ci andiamo proprio ad ascoltare il primo album di questi due, Immediate, uscito appunto per la SD01 nel 2008, un'etichetta australiana, un lavoro che si muove in territori onirici, un jazz assolutamente astratto che attraversa in maniera piuttosto feconda, secondo il mio parere, un incontro con l'elettronica, con una certa avanguardia che oltretutto li porta anche a attraversare dimensioni ambientali assolutamente imprevedibili, tenendo conto soprattutto dei lavori solistici dei tre musicisti, che si muovono su territori molto più diciamo canonici dentro un jazz, seppur aperto, ma sempre dentro un linguaggio abbastanza codificato, mentre in questo progetto sembra aprirsi la loro versatilità, la loro sperimentazione, e abbracciare vari linguaggi, anche linguaggi molto distanti, con grandissima bravura, perché riescono a costruire veramente un percorso sonoro piuttosto originale, e in questo disco appunto riescono perfettamente a ricreare dimensioni oniriche, dimensioni di incontro fra percorsi ambientali ed elettronici e un jazz astratto. Complimenti veramente a questo progetto, non so assolutamente il perché non abbiano portato avanti o abbiano riportato alla luce un altro album nel corso di questi ultimi 6 anni, hanno scelto così, andiamo chissà quali sono state le motivazioni per cui questo progetto è durato così poco. Andiamoci comunque a sentire una traccia dall'album Immediate, e a questo punto continuiamo il nostro viaggio nel sogno, sogni sonici. Tree of Millions, Immediate, l'album, splendido lavoro e splendido disco, lo ripeterò all'infinito. Chiaramente tutti i dischi che abbiamo inserito fino ad ora sono splendidi, chiaramente, dunque la ripetizione è abbastanza ovvia. E adesso ci stiamo avviando verso l'ultima parte della trasmissione di 451 intersezioni, e per chiudere nei viaggi onirici questo primo capitolo di Sogni Sonori andiamo a pescare invece un autore giovanissimo, 26enne, ma ha iniziato veramente in maniera precoce, a 17 anni già i primi album, americano, statunitense se vogliamo essere corretti e precisi, nato a Los Angeles, un chitarrista estremamente eclettico che lavora sullo strumento chitarristico in maniera assolutamente anomala, costruendo vari marchingegni da collocare sulla chitarra e creando una chitarra che diventa in alcuni momenti quasi un synth, ma un synth di grande livello, di grande costruzione, costruendo proprio dei momenti e delle dimensioni elettroniche e oniriche, dunque coniugando l'idea analogica elettrica con quella elettronica in maniera assolutamente intelligente e originale. Non è facile, perché di produzione sperimentali sulle chitarre elettriche come quelle acustiche sono state fatte molte cose in questi ultimi decenni, dunque riuscire a sorprendere o comunque a caratterizzarsi è sempre abbastanza raro. L'album che andiamo a pescare è un album uscito esattamente nel 2011, Paradise AD, un lavoro che particolarmente ci ha interessato proprio per la costruzione sonora complessiva dell'album e per le strade che ha percorso lo stesso Greenspan, che attraversano appunto mondi o immaginazioni e dimensioni che possono ricordare appunto l'elemento sogno, l'elemento onirico. E chiuderemo proprio con questo lavoro la puntata di stasera. Chiaramente vi aspettiamo per la prossima puntata di 451 intersezioni, ma vi ricordiamo anche la puntata di 451 frammenti sonori, che andrà in onda come sempre il mercoledì da mezzanotte alle 2 circa, sempre sulle frequenze di Radio Fujiko. La condurrò solamente io, e dunque il buon Max Macchia mi ha lasciato questo compito importante, e la puntata, ve l'annuncio già, è una puntata che sta molto dentro la tematica giornalistica e mediatica di questi ultimi giorni, di queste ultime settimane, e si intitolerà appunto Arbeit McFry capitolo 2, perché 2 anni fa avevamo già elaborato la prima puntata di Arbeit McFry, Il lavoro rende liberi, e stasera, tra 2 giorni, costruiremo una trasmissione che si declinerà sulla liberazione dal lavoro, ovviamente un punto di domanda, dunque una puntata particolare, Arbeit McFry capitolo 2 a 451 frammenti sonori, mercoledì prossimo da mezzanotte alle 2. Vi lascio dunque con Kevin Greenspan, Paradise AD, e ovviamente poi con le trasmissioni successive di Radio Fujiko. Buona notte, no, buonasera, buona cena, fate voi.